Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Il maltempo, la neve caduta sul nord Italia mette in crisi il sistema dei trasporti, chiusi gli aeroporti di Malpensa, Genova e Verona, cancellato il 5% dei treni. Nelle prossime ore ancora qualche nevicata, ma la tendenza è per un innalzamento delle temperature a partire da domani. Riforme, Berlusconi telefona a Napolitano, ha apprezzato il mio discorso, dice il capo dello Stato. Avevano messo la mano sul porto di Gioia Tauro i boss dell''Ndrangheta, 26 sono finiti in manette. Una buona giornata da Alessio Maurizio e dalla redazione, benvenuti a questa edizione di GR24 che apriamo ancora una volta con la grave situazione che si è determinata nel nord Italia dopo il maltempo, coi disagi su strade, autostrade, ferrovie, aeroporti in Lombardia, Veneto, Liguria, ma anche in Emilia Romagna. In questo momento non nevica più a Milano, anche a Genova e a Bologna, pioggia mista a neve, la pioggia ghiacciata lungo le autostrade ha creato diversi problemi agli automobilisti. La situazione più complicata indubbiamente l'ha vissuta Milano, la capitale del nord, dove nella notte ha continuato a nevicare, dove ieri il traffico è andato letteralmente in tilt. Facciamo allora il punto della situazione con il nostro Paolo Piacenza, che si trova in uno degli snodi principali della città, la stazione ferroviaria di Cadorna. Buongiorno Paolo, come va al momento la situazione al centro di Milano? Sì, buongiorno. Dopo la giornata disastrosa di ieri, con il traffico impazzito, automobilisti bloccati per ore, ritardi infiniti di mezzi pubblici e treni, oggi per Milano è stato un altro giorno difficile. La neve ha dato un po' di tregua, le vie principali sono abbastanza pulite, ma i disagi restano pesanti, in particolare negli aeroporti, il cui blocco ha influenzato di fatto tutta la rete dei trasporti aerei. Orio al Serio chiuso Malpensa, forse si riparte alle 14, Linate aperto, ma partenza e arrivi con il contagocce, è una notte passata a Linate per centinaia di viaggiatori. In strada, come vi detto, va meglio, le auto vanno piano, molti di quelli che sono arrivati in treno però lamentano invece ritardi intorno ai 25-30 minuti. Qui a Cadorna non c'è il solito affollamento abituale delle ore 13, forse è segno che qualcuno è rimasto a casa, ma sentiamo la cronaca della mattinata dalla voce di chi a Milano ci lavora. Io vengo da Vercelli, quindi i treni erano in ritardo di un'ora e ci ho messo una vita ad arrivare a Milano a lavorare. Io lo prendo con filosofia, sono nato un paese di nevo, dunque per me non è una cosa, anzi è bello. Mi ricordo a casa. Ieri si poteva evitare tutto quel caos che abbiamo combinato. Dico abbiamo perché c'ero dentro anch'io con l'automobile. Però io ho un'attività che devo girare con l'automobile. Che potessi prendere i mezzi. Ci sono difficoltà anche con i mezzi, la gente ha anche ragione. Sui mezzi di superficie non andiamo. Dice che sono sul circolare. Due bloccate in attesa di traino. Una è passata bloccata al traino. Una è passata fuori servizio. Ma più che altro ho visto che le strade non sono ancora pulite. E questo qui è traumatizzante. Ieri ho dovuto lasciare la macchina davanti all'ufficio, ho chiesto ospitalità a un'amica. Oggi vabbè, ho preso le metro vanno, almeno quello. Le grandi arterie sono pulite adesso, vedo che si stanno muovendo anche nelle piccole arterie. L'esterno, io che vengo dalla periferia, l'esterno è ancora un po' lasciato andare, però vabbè, Milano si circola. C'è tanta gente, tanta strada sporca e quindi è difficile andare in giro, nei treni soprattutto. Dovevo andare verso le montagne, però neve, sono treni a Mestre fermi e soppressi di ora in ora, anche alcuni con 110 minuti di ritardo. Quindi. E va bene, queste le voci della mattinata. Paolo Piacenza, se non hai nient'altro da... No, direi che appunto l'unica cosa da segnalare è questa Cadorna, stazione Cadorna irrealmente con poca vuota. Gente alle ore 13, sì. Grazie, con questa fotografia da Cadorna torniamo in studio, anche se per pochissimo, perché continuiamo a fare dei collegamenti. Adesso vogliamo monitorare la situazione aeroporti, perché gli scali di Genova, Malpensa e Verona sono chiusi al momento. Forti limitazioni ci sono a Bologna, a Torino e anche a Linate, dove il traffico è ripartito, come ci ricordava anche Paolo Piacenza poco fa, ma molto lentamente, dove soprattutto nella notte c'è stata l'odissea di centinaia di passeggeri incredibilmente bloccati nell'aeroporto per la neve. Allora torniamo a Linate con Fabio Pisanu. Buongiorno Fabio, e come va al momento? Ancora buongiorno da Linate, la situazione insomma sta cambiando seppur molto lentamente. Noi attualmente siamo riusciti a scendere nella zona degli imbarchi, quindi tutti i voli che dopo essere stati rinviati di parecchie ore adesso sono finalmente in partenza. Basta dare uno sguardo al tabellone: Roma, Catania, Palermo, Alghero, Olbia, ancora Roma, quindi l'Italia riprende a essere collegata con l'aeroporto Forlanini di Milano Linate. E qua l'atmosfera è decisamente più rilassata perché una volta passati i controlli si ha l'impressione di poter veramente partire e quindi non ci sono anche quei nervosismi che avevano caratterizzato la nottata, come hai giustamente ricordato tu, e la giornata, la lunghissima giornata di ieri. L'importante è l'augurio adesso è sia che non peggiori il tempo e quindi che non riprenda a nevicare, ma anche che non accada come ieri, quando alcuni voli erano stati svuotati mentre si trovavano praticamente già sulla pista con i passeggeri costretti a tornare nell'aeroporto. Il pensiero appunto è quello che possa nevicare di nuovo nel pomeriggio, perché così dicono le previsioni. Al di là di questo la situazione è molto molto più tranquilla rispetto alla giornata di ieri. Grazie anche a Fabio Pisano da Linate. Adesso invece ci spostiamo a Malpensa, dove la situazione è completamente diversa. Non ci sono state scene di panico per una notte trascorsa, almeno così credo, all'aeroporto come a Linate, però l'aeroporto ancora è chiuso, quindi c'è più rassegnazione. Brigida Rangone. Sì, buongiorno a voi. Qui a Malpensa hanno appena iniziato a imbarcare i primi 4 voli in partenza, però tutti gli altri restano ancora cancellati o in ritardo da diverse ore. Proprio in questo momento è in corso una riunione dei vertici di SEA e di ENAC per valutare le condizioni meteo e decidere l'eventuale riapertura. Molte sono le persone che aspettano di partire da ieri sera, come ci racconta questa passeggera. Sono qui a Malpensa da ieri, dalle ore 18:30. Venendo qui da Torino abbiamo trovato le strade invivibili. Siamo qui appunto da stanotte, ci hanno rimandato il volo per ben 3 volte, non ci hanno saputo dire ancora se questa sera il nostro volo riuscirà a partire alle ore 22 dalle 23:45 di ieri. Siamo un po' sconsolati, un po' arrabbiati, per non dire parolacce. L'aeroporto non è bellissimo, è tenuto male, i bagni fanno schifo e insomma è, diciamo che per il mio viaggio di nozze che dovrò, speriamo, effettuare fra poche ore, non è, diciamo così, la partenza migliore. Così dunque la situazione a Malpensa. Ringraziamo anche Brigida Rangone. I nostri inviati dagli aeroporti ci raccontavano di una situazione dunque che si sta sbloccando, anche se con difficoltà, e tutto dipenderà dalle prossime ore se ci sarà, come dicono le previsioni del tempo, ancora qualche fiocco di neve, qualche piccola nevicata ancora per qualche ora, perché a partire da domani sicuramente le temperature si alzeranno e quindi finiranno le precipitazioni nevose, al massimo ci sarà qualche pioggia. Così gli aeroporti. Adesso la situazione treni. Sui 430 programmati oggi a media e lunga percorrenza, fa sapere Trenitalia, solo il 5% sono i treni cancellati, un po' di più quelli del trasporto regionale, dunque, che riguardano i pendolari, il 6% di cancellazioni. La situazione è più difficoltosa nel nord Italia, ci aggiorna Giovanni Capuano, buongiorno. Sì, buongiorno, c'è molta rassegnazione e un po' di rabbia tra le centinaia di persone che ancora adesso affollano la stazione centrale di Milano e le altre stazioni delle principali città del nord Italia. Ti confermo che non è altissimo il numero dei treni cancellati, restando a Milano se ne sono contati in mattinata una decina, diretti a Ventimiglia, Roma, Bergamo, Pescara. A pesare sono però soprattutto i ritardi, che sono pesantissimi e che non sono diminuiti nemmeno in queste ore in cui la neve ha cessato di cadere. Ritardi generalizzati da poche decine di minuti sulle tratte Milano-Roma, Venezia-Roma a diverse ore, ad esempio 4 ore nei collegamenti tra Milano e la Liguria, quasi 3 ore sul Milano-Napoli, 7 ore di ritardo per un Domodossola a Roma, ritardi di 9 ore per 2 treni partiti ieri sera da Torino diretti a Napoli, a Reggio Calabria, e addirittura il record 706 minuti di ritardo per un convoglio partito sempre ieri dal capoluogo piemontese e che sarebbe dovuto arrivare a Villa San Giovanni alle 11:05 di questa mattina. Informazioni che molti passeggeri bloccati nelle stazioni lamentano essere state fornite riunite con il contagocce da Trenitalia, soprattutto per chi, ascoltando l'appello a non muoversi con la macchina, aveva scelto la ferrovia come una soluzione alternativa. E nella stazione centrale di Milano le persone in attesa hanno pacificamente occupato la sala d'attesa solitamente riservata ai clienti Freccia Rossa per ripararsi almeno dal freddo. La situazione per quanto riguarda la circolazione ferroviaria non è destinata a migliorare nelle prossime ore, anzi è prevista la ripresa delle precipitazioni nel nord Italia. In ogni caso Trenitalia continua a ripetere che per motivi di sicurezza i convogli, soprattutto quelli dell'alta velocità, vengono fatti viaggiare a velocità ridotta. La causa è sempre il ghiaccio presente sui binari e sugli scambi. E da Milano è tutto, linea allo studio. Grazie Giovanni Capuano, e adesso ci spostiamo a Genova, dove manco a dirlo, anche qua la situazione è resa difficoltosa dal trasporto in crisi pubblico e privato. Il treno regionale 11, 3, 4, 5 delle ore 10 e 20 proveniente da Ventimiglia e diretto a La Spezia Centrale arriverà con 80 minuti di ritardo. Questa è una delle tante segnalazioni nella mattinata alle stazioni genovesi. Andrea Ferro, come va ora? Buongiorno, innanzitutto la città ancora fatica a tornare alla normalità dopo l'eccezionale gelata della notte scorsa. Secondo ARPA Liguria erano almeno 20 anni che non si registrava un fenomeno del genere. In alcuni quartieri il termometro è sceso, pensate, a meno 6 per Genova, sono temperature assolutamente inusuali. E così prima dell'alba sull'intero territorio comunale è scattato lo stop al traffico privato, poi dalle 10 alle 12 il blocco ha riguardato i quartieri del Ponente e della Valpolcevera. Ora si circola senza limitazione, ma si segnalano ancora gravi disagi sulle alture. Una ventina di linee di bus restano al momento soppresse e ora il pericolo è costituito dai lastroni di ghiaccio che si staccano dai tetti e nell'entroterra dalle frane, anche perché le previsioni indicano per le prossime ore ancora pioggia e neve sopra i 300 metri. La Protezione Civile ha infatti diramato l'allerta 2 per il Levante genovese e la provincia della Spezia. Un dato positivo riguarda la temperatura che sta risalendo. Ora a Genova siamo sui 3 gradi. Come sentivamo nell'inserto precedente, la situazione alla stazione di Brignole resta ancora molto molto critica. Fino alle 11 praticamente c'è stato lo stop totale del traffico in seguito agli scambi ghiacciati, numerosi i convogli soppressi. Per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro. Altro nodo infrastrutturale coinvolto, ci perdoneranno gli ascoltatori del centro-sud, restiamo al centro-nord, andiamo a Bologna con Emilio Buttaro, buongiorno. Sì, buongiorno, a Bologna non nevica e adesso la temperatura è di circa un grado, la situazione sulle strade sta lentamente, ma diciamo proprio lentamente, migliorando sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale. Tutte aperte adesso le autostrade ed in via di smaltimento le lunghe code. Tra le situazioni più critiche è quella che si registra in prossimità di Reggio Emilia, città dove i disagi si sono allargati anche agli impianti di riscaldamento con centinaia di tubi rotti o congelati che hanno impedito il riscaldamento nelle case. Sino a qualche ora fa la pioggia ghiacciata ha colpito una grande parte della regione, situazione difficile anche a Ferrara, intasato il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna, traffico congestionato per ore anche a Modena, dove la situazione adesso sta migliorando. Difficoltà anche nelle stazioni ferroviarie, ritardi imponenti non soltanto per i treni di lunga percorrenza, ma anche un paio d'ore di ritardo per alcuni collegamenti all'interno della stessa regione. Alcuni voli cancellati e diversi ritardi all'aeroporto Marconi di Bologna. È tutto da Bologna, a voi studio. Grazie anche a Emilio Buttaro allora. E intanto a questo argomento era dedicato anche il sondaggio di oggi di Radio 24. Vi chiedevamo, secondo voi i disagi sono legati al freddo intenso oppure sono dovuti a un paese inefficiente? Ebbene, il 71% di voi ha scelto questa seconda ipotesi, colpa delle inefficienze italiane. Ma il ministro ai trasporti Altero Matteoli, intervenuto questa mattina a Radio 24, sentiamolo, ha escluso la possibilità di rimborsi sui ritardi dei treni. Non si tratta di essere d'accordo o meno, esiste un regolamento che in vigore, a quel regolamento bisogna attenersi. Quando si tratta di calamità come questa, naturalmente non è previsto. Poi su queste cose si può anche trovare un modo di derogare, vedremo. 13:17, ben ritrovati in seconda parte di GR24. Nella prima ci siamo occupati soprattutto dei disagi in Nord Italia seguiti all'ondata eccezionale di maltempo e abbiamo parlato degli aeroporti chiusi a Malpensa, Genova, Verona, le difficoltà a Linate e anche in altri aeroporti del nord, cancellato il 5% dei treni a media e lunga percorrenza, ma come abbiamo descritto la situazione va lentamente migliorando. Adesso tutte le altre notizie. Cominciare dal nuovo intervento oggi del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che ha parlato nuovamente di riforme, Elisabetta Fiorito. Né ottimismo né pessimismo, ma ragionevole fiducia, così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano interviene di nuovo sul cammino da intraprendere sulle riforme dopo il discorso di ieri davanti alle alte cariche dello Stato. Il clima non propizio, dice Napolitano, si riferiva al deficit pubblico, perché condividere le scelte per contenerlo è più difficile che trovare un'intesa sulle riforme. Ma l'ottimismo viene anche da una telefonata intercorsa tra il Premier Silvio Berlusconi e il Capo dello Stato. Berlusconi ha chiamato Napolitano dopo il discorso di ieri per dirgli che ha apprezzato le linee generali. Personalmente i rapporti sono sempre stati buoni, spiega Napolitano, una cosa sono i rapporti personali e una cosa quelli istituzionali. Quando vengono toccate le prerogative istituzionali reagisco nel modo che mi sembra più opportuno. E Napolitano sottolinea, mi ha fatto piacere ricevere la telefonata del presidente Berlusconi. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Adesso parliamo di Fiat, sindacati mobilitati già a Roma e nelle vicinanze di Palazzo Chigi, dove oggi il Lingotto presenta il piano industriale e non saranno buone notizie, tanto per dirne una, per Termini Imerese. Vincenzo Miglietta, qual è la situazione? Buongiorno. Sì, buongiorno, l'appuntamento è per le 16 a Palazzo Chigi, sul tavolo dell'incontro tra Fiat, governo e sindacati, il piano industriale del Lingotto. Diversi nodi da sciogliere nel piano messo a punto dall'amministratore delegato della casa torinese Sergio Marchionne, il futuro di Termini Imerese, la salvaguardia occupazionale, più in generale la riorganizzazione produttiva nel nostro paese ed ancora gli incentivi, le alleanze straniere, le garanzie sull'italianità dell'azienda dopo l'acquisizione della Chrysler. Non ci dovrebbero essere grandi novità rispetto a quanto dichiarato da Marchionne recentemente, soprattutto per Termini Imerese. Nello stabilimento siciliano non si faranno più auto, sarà riconvertito, ha spiegato più volte il manager. Tempi, modi e risorse da investire per la riconversione sono elementi però tutti da chiarire. Il governo non si tirerà indietro, ha fatto sapere il ministro per lo sviluppo economico Scajola, che tuttavia chiede alla Fiat che venga aumentata la produzione di automobili in Italia. Una posizione questa ripresa da tutti i leader sindacali. Per il pomeriggio sono attese intanto davanti a Palazzo Chigi diverse delegazioni di operai Fiat. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Questa mattina il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha parlato dei recenti attentati con pacchi bomba a Milano, all'Università Bocconi, ma anche al CIE di Gradisca, e ha fatto il punto, sono fatti isolati, non appartengono a un disegno unitario, però non vanno sottovalutati. Sentiamo un passaggio dell'informativa di questa mattina di Maroni. Negli ultimi giorni si sono infatti susseguiti diversi eventi in cui è stato possibile registrare un preoccupante innalzamento della tensione. Mi riferisco a quanto ho già detto in quest'aula sulla gravissima aggressione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Quanto accaduto nei sotterranei dell'Università Bocconi non ha fortunatamente colpito le persone, ma non può essere sottovalutato, considerate anche le connessioni con l'esplosione di un pacco bomba avvenuto il giorno prima a Gradisca di Sonzo. Le analogie tra i due pacchi bomba inducono a collocare gli episodi in linea di continuità rispetto ad analoghe azioni realizzate in passato dalle componenti anarchiche, non solo in Italia ma anche all'estero, in particolare in Grecia e in Spagna. In conclusione, l'analisi finora effettuata induce a ritenere quanto accaduto in diverse località come una serie di fatti succedutisi nel tempo, essendo poco verosimile, peraltro, l'esistenza di un disegno criminoso o eversivo unitario che veda un qualche collegamento strategico fra i diversi eventi. Da parte del Ministero dell'Interno e delle Forze di Polizia la vigilanza è in ogni caso massima, e massimo è l'impegno per non dare tregua e non lasciare alcuno spazio a chi, con la violenza, vuole turbare la civile convivenza e alterare il libero svolgimento del confronto politico e sociale. Così dunque il ministro Maroni. Adesso la cronaca ci porta in Calabria, nuova operazione dei carabinieri nel mirino, i boss dell''Ndrangheta, ma soprattutto le enormi traffici che circolano nel porto di Gioia Tauro. Sentiamo. stavano trasformando Gioia Tauro nella porta per l'Europa di tutte le merci contraffatte provenienti dall'Oriente. Ai cinesi garantivano prezzi competitivi e controlli praticamente nulli. Alle 'ndrine andavano guadagni favolosi. All'alba di oggi sono così finiti in manetta in 26. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del ROS hanno stroncato un giro d'affari imponente e sequestrato beni per 50 milioni di euro, tra cui un grande albergo alle porte di Roma. L'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha così sollevato il coperchio a un coacervo di interessi che la dice lunga sul giro di soldi attorno al porto di Gioia Tauro. Nella rete sono finiti boss e affiliati delle cosche Mole e Pesce. Ai cinesi tutto l'affare andava bene. Da una parte infatti risparmiavano sulle tasse dichiarando merce di valore inferiore a quello reale, dall'altra riempivano i container di capi d'abbigliamento contraffatti con le migliori firme: Nike, Punto di Cappa, Puma, Crocs, Filippo Veltri, GR24, Il Sole 24 Ore, Gioia Tauro. È attesa per oggi pomeriggio la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia per Rudy Ghedè, livoriano, ricorderete, già condannato a 30 anni in primo grado con rito abbreviato per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher. Al microfono di Beatrice Vergari, l'avvocato Nicodemo Gentile spiega così le speranze di Ghedè. La speranza è quella di aver dato alla Corte una versione dei fatti diversa da quella immaginata dal giudice Micheli. La speranza è quella di aver offerto elementi tali, tecnici, empirici, logici, da far sì che la Corte torni sui passi dell'indagine e ne dia una versione conforme al racconto di Rudy e arrivare quindi alla soluzione. Sentenza che dovrebbe arrivare oggi pomeriggio alle 16 da Perugia. E adesso una buona notizia che viene dall'Aquila, che ritrova il suo nuovo conservatorio di musica dedicato all'Alfredo Casella, realizzato dalla Protezione Civile di Colle Sapone. In poco più di un mese, pensate, l'edificio è un prefabbricato, per ora naturalmente, su 3 livelli e comprende 42 aule isolate acusticamente, come deve essere, e anche un'aula per orchestra di 220 metri quadrati, una biblioteca. La contentezza del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ma c'è spazio anche per qualche piccola polemica, sentirete al microfono di Adriana Fracchia. È una di quelle cose belle, no? Che in questi giorni così difficili, assicuro, direi, posso dire anche tragiche, è una bella notizia, anche perché vorrei sottolineare che il conservatorio addirittura ha aumentato il numero degli iscritti rispetto all'anno precedente. Questa riprova un po' della grande vitalità della nostra città e anche della voglia di ripartenza, di ripresa che ci sta caratterizzando, e sarà una festa. Questo è un grande risultato. Dietro questa temporanea ricostruzione del conservatorio dell'Aquila c'è una polemica, perché il Giappone si era offerto di farla lui, questa nuova sede, e però c'è stato un rifiuto da parte del governo. In questa situazione mi sono trovato anche un po' in imbarazzo, perché le trattative con l'ambasciata giapponese le conducevo io. Credo che il problema c'è stato con il governo è stato che il Giappone, a quello che so io, offriva questo progetto molto interessante, però credo che il Giappone regalasse il progetto ma non nella realizzazione. Invece adesso il Giappone realizzerà questo auditorium che sarà molto interessante. Siamo allo sport con il calcio. C'è il nono cambio su una panchina di Serie A dall'inizio della stagione. Gianni De Biasi è ufficiale, è il nuovo allenatore dell'Udinese, sostituisce l'esonerato Pasquale Marino. Adesso invece una storia di rugby e d'amore, dobbiamo dirlo, che viene dalla Gran Bretagna. Questa non è la solita storia di mete, fango, palla ovale e placcaggio. Anzi, stavolta il campo da rugby è solo il contorno. E sì che lui, Gareth Thomas, gallese, del rugby mondiale è una leggenda. E lei, Gemma, di Gareth è stata la moglie. Fino a quando, 3 anni fa, Gareth, che in campo, palla ovale sotto braccio, non conosceva avversari, di rivale davvero tosto ne ha trovato uno dentro di sé. La verità. Ha chiamato Gemma e le ha confessato la propria omosessualità. Quello che aveva detto a lei in una notte di lacrime e dolore, Thomas lo ha ripetuto pubblicamente pochi giorni fa al Daily Mail. Il dragone gallese ha messo a nudo le sue paure, le sue incertezze, la sua vita, la consapevolezza della sua nuova scelta. Oggi Gemma non è più sua moglie, ma gli ha voluto mandare lo stesso un messaggio. Lo amerò per sempre, perché lui è davvero un uomo speciale. Mi ha regalato i giorni più fantastici della mia vita e sono orgogliosa di lui. Tra fango, mete, palla ovale e placcaggi c'è tenerezza infinita e infinito amore, amore malgrado tutto, che vale più di qualsiasi sei nazioni e di cui nessun arbitro potrà davvero mai fischiare la fine. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Quando sono le 13:28 in punto termina questa edizione di GR24. In studio Alessio Maurizio, al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. Adesso arriva Stefano Pistolini. Buongiorno America. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.